Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 489, nella quale parleremo di falsa scienza, piaghe d'Egitto, corpi spiaggiati, veterinari minacciati, imprenditori che non prendono mai una papera. Condiremo il tutto con un pizzico di buona cucina e ci berremo insieme tanta ottima musica. Speriamo di avervi incuriositi. My friend. Pay attention, y'all, to the signs. Pay attention. Cominciamo il nostro viaggio da Torino, dove sta per essere avviato un esperimento che noi troviamo agghiacciante. Un gruppo di macachi, circa 6 elementi, verranno resi ciechi attraverso un'operazione al cervello per studiare il fenomeno del blind sight, ovvero la perdita della vista a causa di un danno cerebrale, non quindi per problemi legati all'occhio. Nella ricerca saranno coinvolti anche dei volontari umani, pazienti che verranno sottoposti a esami non invasivi. I macachi verranno immobilizzati, addestrati a vedere alcune immagini, poi resi ciechi attraverso una lesione unilaterale della corteccia visiva primaria e si ritiene cautelativamente opportuno stimare il livello di sofferenza atteso come grave. L'Università di Torino per questo esperimento ha ricevuto il finanziamento di oltre 2 milioni di euro da fondi pubblici, quindi denaro pubblico che viene usato per questo tipo di esperimenti, sostanzialmente torture ad altri esseri viventi, sensibili e senzienti. Qualcosa che fatichiamo ad accettare, ma sentiamo come si giustificano i ricercatori. Il cervello non ha recettori del dolore, afferma Marco Tamietto del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino, responsabile scientifico del progetto. Di per sé non è un organo sensibile. Inoltre, contrariamente a quanto si sta affermando, gli animali non verranno resi ciechi, sarà prodotta una macchia cieca circoscritta ad una zona di alcuni gradi del loro campo visivo e limitata a un solo lato, o destro o sinistro. Resta naturalmente il dubbio di chi potrà mai controllare e verificare quanto davvero diventeranno ciechi questi 6 macachi e comunque dopo l'esperimento per legge i macachi dovranno essere eutanasizzati, cioè uccisi. Se la loro vita conta così poco, figuriamoci quanto potrà mai contare la loro vista. Una parte dei finanziamenti ricevuti è dedicato agli arricchimenti nelle gabbie e al monitoraggio della loro salute fisica e psicologica. Inoltre, continua il ricercatore responsabile del progetto, i macachi coinvolti non sono stati catturati in natura, ma provengono da allevamenti autorizzati. Non hanno idea della vita fuori da questo contesto e con ogni probabilità non sopravviverebbero liberi. Quindi il mondo scientifico si difende parlando di arricchimenti ambientali come se i macachi ci regalassero più volentieri i loro occhi e la loro vita in cambio di una gabbia con qualche frasca e qualche banana in più. È come se il fatto di non essere stati catturati in natura fosse un attenuante, della sperimentazione sui sei macachi abbiamo chiesto un parere alla dottoressa Michela Kuan, biologa responsabile LAV Ricerca Senza Animali. Purtroppo la sperimentazione animali da ormai più di un secolo ancora in maniera molto pesante la ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie, utilizzando un modello che non è mai stato validato scientificamente, che è assolutamente superato dal punto di vista scientifico e che ovviamente ha delle grosse implicazioni etiche. In questo caso parliamo di macachi, specie molto vicine all'uomo, che hanno delle caratteristiche e una complessità sia fisica che comportamentale, e purtroppo l'Italia si macchia per l'ennesima volta di questo peccato, perché addirittura nel nostro paese negli ultimi anni il trend dell'utilizzo dei primati non umani, teoricamente vietato, è addirittura in aumento, è praticamente raddoppiato negli ultimi anni, e questo è uno scandalo che non si può assolutamente accettare. In questo caso addirittura l'Ateneo di Torino, che è l'Ateneo che ha ricevuto l'autorizzazione e il finanziamento per questo protocollo, mentre i macachi saranno utilizzati nella procedura proprio a Parma, perché il Torino non ha l'autorizzazione del Ministero a utilizzare i primati non umani, vede un esperimento estremamente invasivo della durata di 60 mesi, durante i quali gli animali subiscono una fase di training e quindi vengono abituati a leggere e riconoscere delle immagini o comunque delle espressioni, e dobbiamo immaginarci che questi macachi non è che stanno su una bella poltrona e gli viene fornita frutta, ma vengono costrette all'interno di una sfera da primate che li blocca in più punti, soprattutto la testa, che ha una fascia muscolare molto grossa, e sono costretti per ore a guardare queste immagini, fasciati in più punti. Quindi chiunque voglia vedere sia da primate, anche cercandolo su internet, può vedere di quale orrore stiamo parlando. A questo orrore e a questa violenza e a questo dolore, voglio sottolineare, si aggiunge poi l'esperimento stesso. Infatti questi macachi gli verrà asportata parte della corteccia visiva, quindi una investigazione molto invasiva sul cervello, che darà come risultato che il macaco non potrà vedere nella zona corrispondente a quella asportata. Quindi parliamo di sperimentazioni che veramente fanno pensare al Medioevo o comunque a un tipo di ricerca dell'Ottocento che invece noi troviamo ancora nel nostro paese, nonostante la legge, quindi non gli animalisti, ma la legge veda come totalmente prioritari i metodi alternativi. Io invito chiunque a partecipare alla nostra petizione, che si può trovare su Change, è change.org/civediamoliberi, dove potrete firmare. Abbiamo raccolto già più di 120.000 firme in pochissimi giorni, un risultato incredibile che sottolinea come gli italiani siano contrari alla vivisezione, perché qua di vivisezione si tratta, di partecipare il più possibile. Anzi, chi è su Torino, su Parma, stanno nascendo tante iniziative locali promosse anche dalle nostre sedi, e di poter dare una mano, di essere presenti sul territorio, di far sentire la propria voce, perché questo esperimento, ed è questo quello che noi chiediamo, deve essere revocato. Questa autorizzazione non può essere rilasciata in un paese che basa i propri principi sulla trasparenza, sulla tutela. Ricordiamo che la sperimentazione animale non dà soltanto un danno sugli animali, ma anche sull'essere umano, perché i primi a pagare il ritardo di dati che non servono a nulla, che cadono puntualmente nel vuoto, sono proprio gli esseri umani, che aspettano delle cure che non arrivano grazie alla sperimentazione animale, ma arrivano grazie a dei metodi alternativi che hanno come modello l'uomo. Can't believe what I'm hearing. Stone cold. Statuary blue on the telephone. Can't believe what I'm feeling. Bone cold after what you said. In blood written bold, raspberry red. Up upon the rock where an angel stood with a rifle stock underneath his foot. no matter any way. I've won the part on this stage today. Ai macachi è dedicata la ricetta della settimana all'interno del nostro spazio di cucina, il pasto gentile, curato dal tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Quante ce ne sarebbero da dire sulla triste storia dei macachi. Ma lascio la questione a chi sa essere più diplomatico di me, che poi mi scatta il cattivo e tocca censurarmi. Con l'augurio che questi umani si evolvano, dedico ai macachi una ricetta che viene da uno dei loro paesi di origine, l'Afghanistan. Gli ingredienti per 4 persone per il Bohrani Banjan sono 2 melanzane medie, 500 g di pomodori maturi oppure di passata di pomodoro, 5 spicchi di aglio, un peperoncino fresco, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, 250 g di yogurt di soia bianco non dolcificato né aromatizzato, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaino di menta essiccata, olio per friggere, sale fino e sale grosso. Sbucciate le melanzane e affettatele ad uno spessore di circa 3 mm. Lasciatele per mezz'ora in un colapasta con del sale grosso affinché perdano il liquido di vegetazione. Sciacquate, asciugate le fette e friggete in olio caldo fino a quando saranno ben dorate su entrambi i lati. Quindi scolate e adagiate su di un piatto con carta per frittura. A parte, tritate 4 spicchi di aglio e fate soffriggere in 2 cucchiai di olio extravergine. Unite i pomodori tagliati a quadretti, il peperoncino tagliato a rondelle, la curcuma e aggiustate di sale. Coprite il tutto e fate cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti. Nel frattempo tritate l'ultimo spicchio di aglio e unitelo allo yogurt, assieme al succo di limone e ad un pizzico di sale. Quando la salsa sarà pronta, velate un vassoio con 2 cucchiai, quindi adagiate uno strato di melanzane, coprite queste con altra salsa e così via fino a terminare le melanzane. Coprite con un ultimo strato di salsa e infine versate su tutto lo yogurt di soia. Decorate con foglie di menta essiccata e servite. Stone, stone, stone, stone cold, statuary blue, on the telephone, can't believe how I'm reeling. Si è tenuta nelle acque di Marsiglia, un paio di settimane fa, la prima edizione del Grande FI, la gara di immersione per la raccolta di rifiuti che non ha precedenti nel mondo. Un centinaio di partecipanti si sono sfidati dal primo mattino in squadre composte da 5 persone munite ciascuna di una canoa per il trasporto dei rifiuti, tuffandosi dalla plage de Catalan, la popolarissima spiaggia cittadina adiacente il vecchio porto. Il bilancio conclusivo è stato di 1,3 tonnellate raccolte tra buste, cassette, piatti e bottiglie di plastica, oggetti in metallo e altre porcherie. E a proposito di rifiuti, oggi vi ripropongo i Garbage. All'inizio dell'anno si sono fatti risentire con una cover di un vecchio brano del mitico David Bowie, Starman. fade. Came back like a slow voice on a wave of face. That one old DJ that was hazy cosmic judge. Seconda notizia del giorno, il portale Repubblica.it nella cronaca locale di Roma, martedì 11 giugno ci ha dato una brutta notizia. Un capodoglio femmina di 5 metri è stato trovato morto in spiaggia in un lido di Ostia Levante con una profonda ferita. Da marzo, quando venne ritrovata la giovane femmina gravida in Costa Smeralda con 22 kg di plastica nello stomaco, salgono così a 8 i casi di cetacei trovati morti sui litorali nazionali. L'associazione ambientalista WWF insiste sulla necessità di ottenere misure di conservazione efficaci, perché i cetacei, dice il WWF, sono minacciati dal traffico nautico, dalle prospezioni petrolifere, dall'inquinamento acustico, dalla plastica e dalle malattie. Il WWF chiede un'indagine approfondita su questi decessi e azioni dirette per realizzare, almeno nel santuario Pelagos, misure di conservazione efficaci per far sì che quell'area diventi davvero una casa sicura per i giganti del mare e non solo un santuario sulla carta. We'll be right back. terza notizia della settimana ci spostiamo nell'antico Egitto, quando, come narra il libro dell'Esodo, Dio inflisse agli egizi 10 piaghe, 10 punizioni, affinché si decidessero a liberare gli schiavi israeliti. Abbiamo ricordato le famose 10 piaghe d'Egitto perché in Sardegna, nell'Ogliastra, pochi giorni fa, mentre i turisti stavano tranquilli a prendere il sole in spiaggia, Coldiretti denunciava una invasione di cavallette e cornacchie con disastrose conseguenze sulla produzione agricola. Coldiretti, dopo i primi annunci più allarmistici, ha un po' aggiustato il tiro. Ma quello che è certo è che ci dovremo abituare a un clima quasi tropicale, con le ovvie conseguenze anche sulla fauna. Sempre in Sardegna, ancora nell'Ogliastra, il 5 giugno scorso, una giovane veterinaria dell'ASL di Lanusei ha denunciato di essere stata aggredita verbalmente e addirittura minacciata con un coltello alla gola per avere redarguito un operatore maschio che stava maltrattando un animale. Sull'episodio ora indaga la procura di Lanusei. Questa storia, se vera, dal nostro punto di vista, ci racconta almeno 3 cose. La prima è che quando una donna esercita potere su un uomo, questo si sente generalmente ferito nell'onore, un retaggio di una mentalità antica però ancora dura a morire. La seconda è che probabilmente c'è una certa disabitudine da parte degli operatori dei mattatoi a subire ispezioni, limitazioni e controlli. La terza è che i lavoratori dei macelli vivono in uno stato di stress, perché fare un mestiere così violento giorno dopo giorno non può lasciare le persone indenni. Si tratta di un'attività che porta alla morte gli animali, ma che traumatizza anche chi la compie. Se si uccidono per ore e ore al giorno degli esseri viventi che non vogliono morire, e lo si fa volentieri, certamente questo è un problema. Se li si uccidono malvolentieri, è ugualmente un problema. Nel 2016 la giornalista Valeria Teodonio di Repubblica firmò un'inchiesta sui lavoratori dei mattatoi emiliani e così venimmo a conoscenza del fatto che oltre 5.000 operai addetti alla preparazione dei prosciutti effettuavano turni anche di 15 ore in cambio di una paga da fame. Pensate a un unico movimento effettuato ogni 3 o 4 secondi, con gravi danni sia psicologici che alla schiena, alle braccia e alle spalle. Nel 1904 lo scrittore Upton Sinclair si mescolò agli immigrati sottopagati che lavoravano al mattatoio più grande d'America, quello di Chicago, e scrisse La giungla, un romanzo basato su fatti reali che denunciava le condizioni inumane dei lavoratori immigrati nei macelli. Sono passati 115 anni da allora, ma lavorare nei mattatoi non è diventato meno stressante, meno faticoso, meno scioccante. La soluzione per noi non è certamente tecnica, ma può e deve essere solo politica. I mattatoi non dovrebbero più esistere in una società che si voglia definire civile. Un nuovo patto, una nuova alleanza non violenta tra umani e non umani è il nostro sol dell'avvenire. Leave it. l'ultima notizia della settimana arriva dalla manifestazione fieristica del fashion Pitti Uomo, che si è appena conclusa a Firenze. La notizia che ci interessa riguarda l'azienda Animal Friendly Save the Duck, che ha lanciato la prima Circular Economy Jacket. Nicola Sbargi, fondatore del marchio Amico delle Papere, ci annuncia che la Circular Economy Jacket è riciclata e riciclabile. Il tessuto esterno è realizzato in una fibra ottenuta dalla rigenerazione delle reti da pesca e dal riciclo di nylon. In questo modello anche le zip sono in nylon, come l'imbottitura e la fodera, e tutto è completamente riciclabile. Nella realizzazione si impiega meno energia, si riducono le emissioni di CO2 e si usa meno acqua. Ma non basta, il marchio di capispalla Animal Friendly Save the Duck si è alleato con Sea Shepherd, una delle più attive organizzazioni per la tutela degli oceani e della fauna marina, fondata nel 1977 dal capitano Paul Watson. Sea Shepherd agisce utilizzando tattiche di azione diretta non violenta per investigare, documentare e impedire attività illegali ai danni degli oceani. In 40 anni di attività si ricordano gli interventi in Antartide contro la caccia alla balena, in Canada contro il massacro delle foche, alle isole danesi Faroe per i globicefali, ma anche nel Mediterraneo contro la pesca illegale. Save the Duck sosterrà una nave che vuole proteggere gli squali nel Mediterraneo, minacciati dalla pesca selvaggia. Ma non è finita qui. L'azienda che ama le papere ha avviato il progetto 10 Rivers One Ocean, cioè 10 fiumi e un oceano, che vedrà l'esploratore italiano Alex Bellini navigare i 10 fiumi più inquinati al mondo dalla plastica, allo scopo di ispirare un nuovo senso di comprensione e rispetto per i nostri corsi d'acqua. Alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e dalla voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 490 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.